Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, anche oggi 19 settembre 2024, ma andiamo subito con la sigla di apertura. Bene, allora siamo agli inizi di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30, completamente in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo che oggi giovedì 19 settembre 2024 e che questa trasmissione va avanti grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band tedesca, è una band che esiste da una quindicina d'anni, questo è il loro ultimo album, anche se datato 2020, comunque è un album loro personale, anche se l'anno scorso hanno fatto uno split, però solamente cioè uno split di due band, ma solamente l'uscita è in cassetta, proprio come 40-60 anni fa, e comunque loro sono gli Exilent, questo è il loro album Beyond Remedy. Volevo anche aggiungere tedeschi di Hannover. Buonasera e benvenuti e benvenute a tutti voi che siete in ascolto anche da parte mia per questa puntata Gardens Magnetics. Stasera la puntata sarà sostanzialmente dedicata al decreto Piantedosi Nordio Crosetto DDL 1660, che è stato già approvato alla Camera in questi giorni, e quindi avremo un approfondimento con un collegamento con un compagno fra qualche decina di minuti. E invece fra poco, nel frattempo, ecco, per così diciamo scaldare le gomme e i motori, avremo solo niente, due così notiziole recuperate dal mainstream, così dai media di questi giorni, che riguardano comunque sempre annessi e connessi, sempre misfatti di gente, appunto, di quelli al potere, del potere. Ecco, io lascerei ancora un stacco musicale. Eccoci sempre qui, Zardins Magnetics, su Radio Onde Furlane, 20 e 18 minuti di giovedì 19 settembre. Allora, volevo solo così ripartire in questa puntata con un argomento che è finito sullo sfondo ultimamente, ed è quello del 41 bis. Partiamo da un articolo uscito su una, diciamo, rivista, periodico online, che si chiama La Città Invisibile, viene fatto a Firenze ed è un foglio, diciamo, di una lista, di una ex lista civica indifferente. Comunque, in questo articolo noi abbiamo recuperato cioè una testimonianza di questo Sauro Poli, che era del pool che si occupò del caso, nel senso che era difensore insieme ad altri, tra cui Flavio Rosso Albertini, eccetera, e della questione, insomma, della difesa legale di Alfredo Cospito. Sauro Poli dice che ormai è trascorso quasi un anno e mezzo dall'ultima pronuncia della Cassazione, ma Cospito si è ritirato nel suo sarcofago di cemento armato, espressione utilizzata da Flavio Rosso Albertini, suo avvocato difensore, ma alcune cose rimangono nell'aria. A circa 2 anni dalla pronuncia della Cassazione, che rimandava a Torino il processo per determinare la pena, alcune considerazioni è necessario farle. Allora, una prima considerazione è questa, che è la prima volta nella storia dell'ordinamento, di questo paese, che viene contestata la strage politica. Il paese, che si chiama Italia, partendo dalla Repubblica, dalla proclamazione della Repubblica, dal 46 in qua, di stragi ne sono state molte, diverse. Pensiamo a stragi compiute sparando sui braccianti subito dopo la fine della guerra, subito dopo appunto la Repubblica, prima negli anni 50, poi negli anni 50 anche Reggio Emilia, sono stati appunto represse duramente le proteste, le contestazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, ma per non parlare di un'intera epoca, di un'intera fase della storia della Repubblica, che va dal 12 dicembre 69 alla strage di Bologna del 2 agosto 80, per fermarsi, per trovare due capisaldi, ma poi è continuata la questione, ed erano quelle stragi politiche. La lingua italiana non è che dà tante possibili vie di fuga dai significati di strage e politica. Mettere il plastico, nella piazza di Piazza della Loggia a Brescia, durante un comizio dei sindacati, principali sindacati dei lavoratori, che si erano riuniti per manifestare contro il neofascismo, usando appunto fu ordine nuovo a collocare l'ordigno con il plastico, che appunto è un materiale che veniva usato già in ambito di controguerriglia, già dagli apparati di difesa francesi, coloniali francesi in Algeria. Pari appunto ordine nuovo aveva preso da questi persino il simbolo. Se queste non sono stragi di stampo politico, e invece non è mai stata contestata da nessun magistrato la strage politica per questi reati. Invece per Alfredo Cospito, per l'anarchico Alfredo Cospito, sì. Andando alla memoria documentaria, ritorniamo a questo avvocato Poli, andando alla memoria documentaria dei difensori di Alfredo Cospito, Anna Beniamino, alle obiezioni sollevate dai difensori che mai è stata contestata la strage politica né nel caso di Bologna né per le stragi di mafia, la Cassazione ha argomentato che in quei casi, essendoci dei morti, la superfetazione giuridica era perfettamente inutile, i morti di per sé fondavano il reato di strage, e per loro in quel caso lì era era un'aggiunta superflua l'aggettivo politico, caratterizzarlo in maniera politica. Persino il presidente della Corte d'Appello di Bologna commentò che se quella di Bologna non era una strage politica, quale altra strage potrà mai dichiararsi politica? Ricordo che, dice sempre l'avvocato, dopo il documento di ottobre 22 sottoscritto dai primi 20 avvocati che si esposero, se ricordate, ci furono diversi appelli della cosiddetta società civile, i primi a muoversi, continuo a leggere, furono intellettuali, filosofi, primi fra tutti Manconi e Cacciari, seguiti da varie associazioni e dei compagni di Cospito, a valle di quell'impegno che fece esplodere un grosso dibattito pubblico, si può senz'altro affermare, questo è il secondo concetto, appunto, che il sistema si sia ricomposto. All'obiezione che le stragi politiche non sono mai state contestate, la Cassazione risponde che l'attentato alla scuola di Fossano rappresenta un attentato alla stabilità interna dello Stato, dal momento che era il luogo dove si addestrano i giovani carabinieri e l'arma è una delle colonne portanti dello Stato. Perciò si parla di strage contro lo Stato. Continua, il sistema ha saputo reagire di fronte alle levate di scudi che ci sono state durante tutti i sei mesi di sciopero della fame, con l'aggiustamento, con l'aggiustamento, cioè se l'ordinamento, il sistema giudiziario, il sistema politico si sono appunto aggiustati, nel senso che si sono regolati e hanno riportato, diciamo, le cose, cioè i rapporti di forza come erano prima di tutta la vicenda. Il sistema ha dimostrato di avere i suoi anticorpi nei confronti delle obiezioni più lucide. Sta di fatto che Cospito si è ritirato nel suo sarcofago, rimangono le minuzie dei processi per chi lo ha sostenuto nella sua battaglia, partecipando alle manifestazioni di piazza. È caduto un silenzio tombale sul punto centrale di diatriba, ovvero la sostenibilità costituzionale del 41 bis. Da una battaglia personale, quella di Cospito era diventata quella dei 700 dannati al 41 bis, il dibattito è sprofondato nell'oscurità assoluta e dei 700 dannati non se ne sa più nulla. E sì, minuzie, io direi, è facile parlare di minuzie, insomma, bisogna mettersi anche nei panni di chi ce le ha queste minuzie. Sul gruppone dei processi si parla, insomma, di chi ha sostenuto, chi ha partecipato alle proteste, alle manifestazioni, e sono piovuti diverse denunce, diverse rinvii a giudizio per soliti reati, diciamo, che sono strumento della repressione, che poi approfondiremo fra qualche minuto. Un solo 20 secondi di musica, che bevo un bicchiere d'acqua. Ecco, l'altro così articolo delle rassegne stampa di questi giorni, il precedente non l'ho detto, era del 14 settembre, Cospito e gli altri, il silenzio sui 700 detenuti al 41 bis. Invece questo è un articolo che è uscito l'altro ieri, martedì, sul Foglio, 17 settembre, e forse vi è di sfuggita, avete intravisto nei notiziari, nei TG, il simpatico camerata Giovanni Donzelli, no? Che è capogruppo, mi sembra, di Fratelli d'Italia alla Camera. Ve lo ricordate, quello faccia sembra veramente un penso, insomma, le rappresentazioni di Pinocchio che ci sono nei libri, in certi libri per l'infanzia. Comunque ha fatto anche una figura da Pinocchio, nel senso che è stato appunto sentito come testimone al processo che sta subendo il suo camerata Del Mastro, sottosegretario, dalla memoria prodigiosa. Allora, i fatti sono questi: praticamente è stato fatto un esposto alla procura, competente per i deputati, in quanto durante un intervento in aula, se ricordate, il 31 gennaio 2023, Donzelli, per polemizzare con altre parti politiche, ha ha reso diffuso pubblicamente contenuti di verbali di diciamo di come si dice quando fanno verbalizzano le conversazioni tra i detenuti, e quello lì era ovviamente era riservato, era interno, diciamo un documento interno, e lui se lo sono dimenticati, lui e il suo compare, cioè il compare che gli ha fornito le trascrizioni è Donzelli, che è sottosegretario, che le ha chieste direttamente all'apparato amministrativo, no? Al DAP. Invece Donzelli, che è capogruppo alla Camera, le ha lette, ecco. Davanti al giudice questo Donzelli ha avuto coraggio di dire che praticamente lui non ha visto nessuna trascrizione, perché Del Mastro gli ha riportato esattamente parola per parola le trascrizioni a memoria, cioè a voce. Allora, mi disse che non erano notizie riservate, non mi mostrò documenti. Del Mastro, con una memoria infallibile, avrebbe riferito a Donzelli le esatte parole contenute nelle relazioni ricevute dal DAP. Un sottosegretario dalla memoria prodigiosa, Andrea Del Mastro come picco della Mirandola. I colloqui di Cospito erano contenuti in atti che erano stati richiesti dal sottosegretario Del Mastro e che erano classificati come limitata divulgazione, cioè non sarebbero dovuti uscire dal Ministero della Giustizia. Allora, lui ha detto così in aula. Donzelli, davanti ai giudici, ha detto: non ho chiesto a Del Mastro da chi arrivassero queste informazioni, ma supponevo venissero dal DAP. Mi disse che non erano notizie riservate. Donzelli ha escluso che Del Mastro gli abbia mostrato documenti. In altre parole, il sottosegretario è andato a braccio. Il problema evidenziato in udienza dalla pubblica accusa è che le parole pronunciate in aula da Donzelli sono esattamente coincidenti, identiche persino negli avverbi, con quelle contenute nella relazione inviata dal NIC, Nucleo Investigativo Centrale della Penitenziaria, al DAP, che poi venne trasmessa a Del Mastro. In altre parole, Del Mastro, con una memoria infallibile, avrebbe riferito all'amico Donzelli in transatlantico le esatte parole contenute nelle relazioni ricevute dal DAP, lette nelle ore precedenti. Donzelli, come ha ribadito anche ieri, si sarebbe limitato a prendere appunti per poi riportare quei contenuti in intervento alla Camera. Ho trascritto quello che mi ha detto Del Mastro e poi l'ho detto in aula. Una ricostruzione che non sembra aver molto convinto il presidente del collegio, Rugarli, che dopo aver sbuffato più volte si è direttamente rivolta al testimone Donzelli: onorevole, ma sono perfettamente coincidenti, cioè hanno persino la stessa sequenza di termini, cioè sono la stessa cosa. Ribadisco che posso riferire sulla mia memoria, che non è buona, per questo sono abituato a prendere appunti. Se Del Mastro ha una buona memoria, ha replicato Donzelli in apertura della sua testimonianza, il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva dichiarato che Del Mastro ha una memoria incredibile su tutto, cita anche cose di 10 anni prima. Comunque conclude così l'articolo: ogni modo, supponendo che Del Mastro avesse letto il verbale del NIC, Donzelli non ha dato una grande mano al sottosegretario. A mettere nei guai quest'ultimo sono soprattutto le parole del capo del DAP, ascoltato lo scorso giugno come testimone, su richiesta del sottosegretario Del Mastro gli inviai due relazioni sul caso di Cospito, entrambe con la clausola a limitata divulgazione, che quindi sarebbero dovuti rimanere all'interno dell'amministrazione. A dispetto della clausola di riservatezza, Del Mastro riferì i contenuti di quei documenti al suo amico Donzelli, che poi li rivelò alla Camera. Niente, con la faccia di bronzo si può superare qualsiasi ostacolo, diciamo, che si ponga anche di tipo giudiziario. Vedremo come va, cioè vedremo. Sono bei momenti bei momenti in cui viene fuori, ecco, l'essenza, l'anima di questi personaggi, che non hanno veramente dignità da nessuna parte. Bene, questi che abbiamo ascoltato anche in sottofondo durante l'intervento sono i Disgust, band inglese, e ora invece andiamo all'ascolto di questa band italiana che diciamo al momento è l'unico loro disco uscito nel 2022, prima loro uscita discografica per questa band di Milano. Loro sono i Tenia e questo è il loro, appunto, come ho detto, primo album che si intitola Altrove. We'll be right back. Ricordo che stiamo ascoltando questa band milanese, i Tenia, da questo loro album Altrove, datato 2022, unica loro uscita discografica. Bene, dopo questi Tenia direttamente da Milano, ci ascoltiamo invece una band torinese, anche se un loro album, anzi uno split, anche questo album, per questa band torinese, gli Always, come ho detto, un po' datato, 2006, split assieme agli Overturner. Comunque noi ci ascoltiamo gli Always. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, dovrebbe esserci già in collegamento il compagno che, con il quale faremo un approfondimento sul decreto legge 1660, il famigerato pacchetto sicurezza Piantedosi Nordio Crosetto. Ci sei? Sì, sono qua. Sì. Ehi là, ciao, ciao, bentornato a Zardins intanto. Allora, la chiamata. Allora, noi abbiamo parlato in diverse occasioni del decreto sicurezza, così, però in maniera, diciamo, non organica, non strutturata. E tu hai approfondito, no, un po', per via che c'è stato questo testo anche che avete scritto su Antitesi, abbastanza dettagliato, insomma, sul decreto legge. Allora magari potremo partire da lì, se illustri un po' le caratteristiche, poi discutiamo un po', insomma. Io mi ero segnata delle robe che mi avevano colpito, così, dei punti che secondo me sono significativi di tutta la baracca, e non so se sei d'accordo, potremmo fare così, magari tu cominci e dopo dialoghiamo. Ma sì, diciamo che noi abbiamo scritto questo testo già quest'estate, perché insomma si sta discutendo di questo decreto legge, loro stanno discutendo di questo decreto legge da tempo, sì. Insomma da mesi. Sì, io ricordo che, scusa se ti interrompo, già a gennaio mi ricordo, erano uscite delle cose, no? Già a gennaio 24. Sì, quello che non stupisce è che in sostanza ogni governo deve fare un'ulteriore stretta repressiva, tra l'altro ogni governo, dico, quindi certo. non è una cosa che riguarda solo Meloni o i fascisti attuali al governo, perché insomma la cosiddetta sinistra non ha fatto da meno, pensiamo che questa stagione dei pacchetti sicurezza inizia nel 99, come diciamo appunto nel nostro volantino, nel comunicato di Antitesi rivista comunista, inizia nel 99 col governo D'Alema e prosegue poi con i vari pacchetti di Maroni, Pisano, Minniti, Salvini del 2018, quello di Salvini, sì. Molto anche mediatizzato anche questo, e poi arriviamo adesso con questo nuovo pacchetto sicurezza. Ecco, quello che diciamo noi è che è evidente un legame tra questa spirale autoritaria e repressiva sul fronte interno e il processo di guerra. Certo. Nel 99 il governo D'Alema era un governo di guerra, perché fu il governo che aveva il mandato di far partecipare l'Italia all'aggressione alla Jugoslavia e ai bombardamenti sulla Serbia e sul Kosovo. Oggi abbiamo un governo di guerra, nel senso che siamo arrivati al nono pacchetto di armi all'Ucraina, e un governo pienamente allineato al regime sionista e alla guerra dei sionisti contro il popolo palestinese e contro gli altri popoli della regione. E il loro obiettivo è, secondo noi, ma insomma è sempre più evidente, arrivare a un fronte interno che sia pienamente pacificato nel contesto della guerra imperialista, della partecipazione dell'imperialismo italiano al processo di guerra globale, e gli strumenti dell'inasprimento della normativa penale servono a questo, ecco. A creare questo. Questo passaggio, insomma, è l'ennesimo, si caratterizza per portare avanti quindi un processo che, insomma, abbiamo già visto purtroppo in atto da in più da un decennio da questa parte, insomma, almeno due decenni, ecco. Certo. Però diciamo c'è stata come una specie di accelerazione, no? Con questo decreto, cioè hanno parlato ad esempio di repressione come tecnica di governo, nel senso che è una cosa totalmente spudorata, diciamo, si può dire secondo te questo? Ma cioè che non ci sono spiragli, no? Secondo me è un aggravamento si iscrive pienamente in continuità. Mm-hmm. Io non vedo un salto qualitativo così forte rispetto agli altri. Vedo un aggravamento, vedo una perfetta coerenza. Mm-hmm. Non vedo, ci sono alcune specificità, però intendiamoci, queste specificità le hanno portate avanti, le hanno preparate, accumulate tutti i governi. Cioè, faccio un esempio che rende bene l'idea. Sì. Il tanto mediatizzato blocco stradale. Sì. Quello lì era stato per assurdo depenalizzato con il governo D'Alema, il blocco stradale con il proprio corpo. Sì. E anche con il blocco stradale con oggetti messi sulla strada era stato depenalizzato nel 99, ma erano state date sanzioni amministrative molto pesanti. Sì. Fino a 4.000 euro. E questo è un po' un calibrare anche la repressione da parte dello Stato che abbiamo di fronte, nel senso che tante volte la sanzione amministrativa di migliaia di euro è peggio quasi, perché mm-hmm. subitanea, nel senso uh-huh. che viene data a pochi giorni dai fatti, può essere data, combinata, anzi deve essere combinata a pochi giorni dai fatti, ha un ruolo abbastanza, da deterrente, di intimidazione verso le lotte. Mm-hmm. Ne abbiamo viste durante la lotta contro il Green Pass a Trieste. Noi facevamo i cortei non autorizzati durante la zona rossa e la multa di migliaia di euro ci arrivava qualche giorno dopo, proprio per impedire lo svolgimento del successivo corteo. Sì. Però si vede, poi c'è una linea particolarmente cara all'ex ministro degli interni all'epoca, Salvini, oggi ministro dei trasporti, quella di invece della galera, del penale, e quindi nel 2018 il blocco stradale con oggetti, tipo il classico cassonetto messo in mezzo alla strada, durante le manifestazioni diventa penale. Uh-huh. E ricordo che 5 operai dell'Ansaldo di Genova, come abbiamo anche scritto, nel 2022 lottavano per il loro posto di lavoro e sono stati condannati a un anno di detenzione. Sì. Con questo con il decreto, in base al decreto sicurezza Salvini. Di Salvini del uh-huh. 2018. Poi c'è il blocco con il proprio corpo. Sì. E qua si vede proprio la continuità, cioè uno che si mette a camminare in strada, cioè il classico corteo spontaneo. Quello lì, nella versione del 48, perché questa legge risale al 48, non era previsto come illecito. Mm. Viene introdotto proprio da Salvini sempre nel 2018, come all'inizio sanzione amministrativa. E infatti a Trieste, per colpire la mobilitazione non Green Pass, siamo stati colpiti, siccome noi non mettevamo i cassonetti in mezzo alla strada ma comunque facevamo cortei spontanei durante la zona rossa, e siamo stati colpiti con questa versione. Okay. Con, mi sembra, quattro cortei abbiamo fatto e quattro multe da migliaia di euro. Sì, sì. Adesso quella fattispecie introdotta all'epoca come sanzione amministrativa diventa penale. Mm-hmm. Quindi la gradazione è questa: diventa penale con sanzioni nel reato base fino a 2 anni. Mm-hmm. Qualsiasi blocco, appunto camminata in mezzo alla strada, può essere colpibile con con un procedimento penale, con una sanzione penale. Quindi qua si vede proprio il crescendo. Sì. Prima ci provano con queste fattispecie a mettere amministrative per colpire le lotte in un'altra maniera, la linea di D'Alema ad esempio. Sì. Poi arriva Salvini e fa penale di nuovo quello che era amministrativo e introduce un'altra fattispecie, il blocco col proprio corpo, cioè la camminata in mezzo alla strada. Nel 2018, dopo adesso, passati quindi 5 anni, quella fattispecie diviene penale, anche quella della camminata col proprio corpo, e nel frattempo l'altra, il cassonetto portato in mezzo alla strada, è già ridiventato penale. Sì, sì. Quindi c'è proprio una continuità nostra età, probabilmente io penso che il salto qualitativo dipende dalla dimensione in cui siamo, dalla situazione in cui siamo, cioè viviamo fuori da 2 anni di torsione autoritaria profonda, di isolamento anche delle persone, quindi sì. Sì, alla strumentalizzazione della questione Covid. Da parte dello Stato, veniamo fuori in cui insomma tutto il famoso stato di diritto è stato sospeso, con coprifuochi, con divieti di manifestazione, con una militarizzazione e uno stato di polizia che non si vedeva dai tempi del fascismo e che è rimasto si è stabilizzato, sì. E oggi ci troviamo di fronte, ereditato tutta questa torsione autoritaria, tutto questo patrimonio autoritario del Covid con divieti a manifestare che sono comunque rimasti, come dire, nella prassi ormai delle questure. Pensiamo a quello che succede al movimento per la Palestina, cioè il 27 gennaio, in cui si ricorda il genocidio, la Shoah degli ebrei d'Europa, non si può manifestare contro un altro genocidio che è oggi in corso, quello dei palestinesi, no? Quindi una circolare ministeriale che vieta le manifestazioni, poi il divieto alle manifestazioni per la Palestina di arrivare in centro con una tecnica molto simile utilizzata per le manifestazioni no Green Pass. Adesso il 5 ottobre la manifestazione che i giovani palestinesi hanno lanciato a Roma per l'anniversario dell'operazione di Luvelaxa, vietata con una circolare, con intervento diretto del ministro dell'interno. Ma è definitivo questo divieto? Perché ho letto anch'io, questo divieto di Piantedosi è definitivo? Adesso non lo sappiamo, però c'è questa roba, si sta muovendo in questo senso, ecco. Quindi cioè, il contesto è, secondo me, più che la crinale del diritto che tutti ci hanno scavato nel diritto per rendere diritto della democratico, cosiddetto costituzionale, sempre più il diritto penale, sempre più autoritario, sempre più diritto di guerra, più che è proprio il clima che secondo me è sempre peggiore, perché è investito dalla dimensione della guerra. Poco da fare, cioè siamo alleati di un paese che fa esplodere i cellulari e 100 persone in Libano, siamo alleati stretti e fornitori di armi, viviamo in una condizione di guerra con una potenza nucleare in Europa tendiamo a essere una delle, a parte gli ucraini che vengono mandati a massacrare per conto nostro della NATO, ma dalle basi del sud Italia si dirigono i droni e i missili ucraini che vanno a colpire il territorio russo o la Crimea, che vengono rivendicati dai russi, che sono stati occupati dai russi, quindi cioè questa è la condizione in cui viviamo. Sul fronte interno loro vogliono in sostanza qualsiasi segnale di ripresa di una di lotte, qualsiasi di conflittualità sociale, loro la vogliono azzerare. E questo è lo strumento, perché è chiaro che poi sono pienamente convinto, ma chiunque legge sto pacchetto si può rendere conto che devono colpire le mobilitazioni di piazza duramente, qualsiasi forma conflittuale, c'è addirittura quell'emendamento della Lega fatto apposta per le opere. Sì, per le grandi opere, o le opere strategiche anche, no? Quindi vale anche per i siti strategici, quindi vale anche per le industrie di armi, per capirsi. Sì. Tutto quello che è l'interesse strategico nazionale, sì. Esatto, strategico può essere uno stabilimento di Leonardo, ovviamente, strategica sappiamo già che è la TAV, e strategico il ponte sullo stretto e avanti. Esatto. E questa è un po' questa è la condizione in cui siamo, e voglio dire, e dopo c'è la ricaduta generale, cioè quest'estate abbiamo visto una serie di rivolte come non si vedevano appunto dai tempi del Covid, dal 2020 nelle carceri, e qui si punisce la rivolta stessa. Tra l'altro, cioè, qui siamo veramente a degli obbrobi giuridici, nel senso che non c'è più, il reato diventa quello di rivolta, quindi non ci sono più reati specifici. Cioè io ho rotto un vetro, danneggiamento, facendo un discorso in avvocatese, cioè non c'è più reato specifico per cui io do un pugno al poliziotto, io voglio dire spacco il vetro, io rovescio il carrello e rispondo di una cosa, no, c'è la rivolta, quindi più di tre persone è già, si è criminalizza rivolta. Anche un po' come all'esterno c'è la, la devastazione, saccheggio, esatto, no? Sì, sì. Cioè, per cui tu eri al G8 di Genova, poco importante cosa hai fatto specifico, ma tu in quel contesto là eri un manifestante e ti fai 15 anni di galera perché sono successi degli scontri, oppure sono andate incendiate delle macchine di lusso, delle vetrine di lusso. Questo è il quello che... nelle carceri si vuole praticamente un clima di terrore, ecco, nel senso. Sì, perché anche il, solo il fatto di disobbedire, no? Viene considerato disobbedire agli ordini, esatto. Poi con questa terminologia, sì. Cioè, la resistenza passiva. Esatto, cioè, si criminalizza la resistenza passiva. L'ordine, cioè il detenuto che non rientra in cella all'ordine del secondino è un rivoltoso. Sì, sì. La cosa che mi ha fatto più accapponare la pelle leggendo questa cosa qua, memore anche degli ultimi accadimenti di luglio a Trieste, sì, è che si viene puniti con da 10 a 20 anni di galera se qualcuno rimane ucciso nella rivolta. Sì. Se qualcuno rimane ucciso, quindi potrebbero averlo ucciso loro, con le manganellate, con le pistolettate, come è accaduto a Modena. Beh, sì, infatti. Oppure qualcuno può morire, ma ammettiamo che le loro storie possono essere anche vere, che qualcuno ingerisce del metadone, dei farmaci, magari per sottrarsi a una condizione di cui non può più, e magari questi farmaci sono stati procurati durante la rivolta, no? Sì. Ma in quel caso lì i rivoltosi devono pagare per la morte di un loro compagno di detenzione, quindi per l'avvenimento accaduto qui a luglio con la morte di Stenko Fabiancic qua a Trieste, sì, no? Che è morto successivamente alla è stato lasciato morire praticamente, sì. Sì. Lasciato e morire questa... perché... Sì, sì. La cosa anche che lascia il doppio regime per tracipiare carceri, anche quello è una, sì, roba... Addirittura nelle carceri se c'è una lesione personale grave, quindi vuol dire non una morte, ma una lesione personale grave nel CPR, quindi una guardia, quelli delle cooperative che accettano. Sì, sì, gli operatori lì, sì. Se qualcuno di quelli, o anche un altro recluso, ha delle lesioni personali gravi, la pena va da 10 a 20 anni in caso di una rivolta nel CPR. Sì, sì. Cioè, siamo a questi livelli, senso. Sì, sì. Altro che sovraffollamento carcerario, cioè qua veramente siamo a dei livelli molto pesanti di repressione anche di questi fenomeni di rivolte spontanee, di proletari, di detenuti, di reclusi. Cioè, esatto, e poi c'è il discorso della protezione della polizia e dei cioè di tutte le forze di polizia, no? Perché c'è il discorso che vengono aggravati i reati di resistenza, il reato di resistenza, giusto? Sì, là c'è il solito passaggio per cui c'è la categoria, diciamo, che nessuno può difendere perché è impresentabile, insomma gli ultras, dove si sperimentano delle forme di aggravamento delle pene, e quello che finora ha previsto, cioè un aggravamento delle pene per nel caso di lesioni o di resistenza poliziotto e nelle manifestazioni sportive, viene portato nelle manifestazioni, sì, in generale. Sì, sì, sì. E questo è un'altra grana pesante, ecco, quindi per cui insomma si aggravano le pene se si tocca il cosiddetto pubblico ufficiale. Esatto, ma anche perché appunto in pratica come se le lesioni al pubblico ufficiale sono più gravi delle lesioni ai civili. Nel senso, i civili, è come se fosse un corpo speciale, no? Cioè dei corpi speciali, quelli dei pubblici ufficiali. E poi il discorso anche cioè, loro hanno, diciamo, la polizia e in generale le forze dell'ordine hanno mano più libera in base a questo decreto legge, nel senso che vengono, gli viene anticipato in caso di procedimenti penali a loro carico, hanno fino a 10.000 euro per l'onorario dell'avvocato, no? Una specie di tutela legale speciale, tipo, ho letto da qualche parte. La cosa più anche significativa, sì, oltre insomma a tutta questa insomma questi corpi di polizia, sì, che divengono insomma dei pretoriani e che vengono coccolati in tutte le maniere, perché insomma rappresentano lo Stato quando lo Stato non è più rappresentato dal reddito della cittadinanza, dalla pensione, dall'ufficio pubblico, lo Stato deve dimostrare un'altra volta per far tenere la gente buona, quella del manganello, dell'arma, eccetera. Questo nella situazione anche insomma di crisi e di riflesso nella società che questo ha sui lavoratori, sulle masse popolari, bisogna far tenere la gente buona, bisogna avere gente disposta insomma a menare i poliziotti sono questo. E voglio dire, la roba più che fa riflettere è la possibilità di avere un'altra arma, lì probabilmente siamo stati imprecisi nel volantino, nel nostro comunicato, di avere un'altra arma oltre all'arma d'ordinanza, un'arma privata, quindi, esatto, e circolare armati. Sì. Questo lo abbiamo paragonato al modello israeliano, ma è così, nel senso che in Israele insomma i coloni e gli israeliani possono circolare sempre armati, perché insomma vivono in un clima giustamente di insorgenza continua da parte dei palestinesi, devono sempre poter avere un'arma per far fuori il palestinese che sgarra, che si rivolta, eccetera. E qua uguale, cioè i poliziotti possono girare armati, ecco, certo, con armi loro private come vogliono, con armi loro private. E anche questo passaggio qua insomma è significativo, in un contesto tra l'altro dove il mass media, la comunicazione di massa, cioè gonfia enormemente questo discorso della sicurezza che diventa un mantra ma continuo di una guerra interna, tra l'altro un mantra che produce solamente instabilità tra le persone, perché crea terrore immotivati, ansia, e anche maleseri proprio di tutti i generi, perché lo vediamo nei quartieri insomma anche più abbandonati, diciamo, ma volevo dire un'altra cosa rispetto alla polizia, anche questo discorso questo aggravarsi anche del discorso dell'occupazione di stabili, no? E anche qua hanno creato tutta la roba della gente che va a occupare le case dei vecchietti, eccetera, hanno fatto tutta questa campagna, è un bel po' che fanno una campagna di demonizzazione, diciamo, delle occupazioni, ma il discorso che in base a questo decreto anche uno sgombero di un'occupazione non serve che passi, diciamo, che ci sia la magistratura che interviene, ma già le forze di polizia possono intervenire a loro discrezione. Qua vedremo la gente sbattuta per strada, perché cioè, il discorso, cioè, ci sarà il caso di qualcuno che entra a casa della vecchietta che è in ospizio, ma insomma qua se uno passa per Piazza della Libertà qui a Trieste, da dove sto parlando, cioè, si rende conto del problema della casa, qua c'è gente che dorme in strada. Certo che c'è il problema, sì. Cioè è una roba. E abbiamo 10.000 case sfitte qua a Trieste qua loro creano un reato, l'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, finora era invasione di terreni ed edifici, il reato, punito da 2 a 7 anni, cioè da 2 a 7 anni, minimo 2 anni, cioè non è prevista adesso una formulazione, voglio dire, resistenza pubblica ufficiale si parte da 6 mesi, no? Nel senso, è già un reato importante, grave, qui uno entra in casa di una di altre proprietà, ma insomma i casi di occupazione vera e propria di qualcuno che trovi il suo la pasta asciutta sul tavolo, insomma sono lo lasciamo a libero e ma sì, alla chiaro, volontà, però lasciamo alla stampa reazionaria, chiaro. Ma voglio dire, la maggior parte dei casi è gente che insomma per avere qualcosa, soprattutto con figli, va in case sfitte, cioè le stesse, beh, cosa devi fare, le stesse aziende, voglio dire delle per la residenzialità pubblica, cioè là per Quatrieste, cioè lascia case vuote anni. Sì, ma anche qua a Udine dappertutto, sì. Uno scandalo, sì. Uno si mette in lista, aspetta 10 anni. Cioè, e le case sono vuote. Gli affitti ormai qua per a Trieste, con il discorso del turismo, gli affitti con 600 euro per 30 metri quadrati, per 20 metri quadrati, cioè stiamo arrivando a livelli milanesi, cioè, e questi inseriscono da 2 a 7 anni, cioè questo è... guerra ai poveri, questa è la guerra ai poveri specificamente. Sì. E siamo quasi... abbiamo poco tempo ancora perché sono già quasi le 9:15. Volevo chiederti anche alcune robe sul discorso, diciamo, del terrorismo della parola. Ma sì, lì girano un po' cose un po' troppo allarmanti. Non è che adesso la propaganda delle lotte diventa reato. Loro vogliono punire il fatto delle istruzioni per commettere attentati, se sembra semplice detenzione. E poi c'è una novella all'articolo 435 del codice penale. Sì. Se, oltre a chi che punisce già chi detiene materiale esplodente, chi detiene divulga istruzioni per tipo manuali o robe così, ecco, cioè qui è chiaro che la soglia si abbassa, anche perché ma anche perché un attentato, bisogna vedere cosa si intende, può essere, cioè anche un petardo, se lo intendi come, cioè non è che un attentato deve essere una roba mostruosa, no? Può essere anche, è opinabile, ecco, da questo punto di vista. Sì. Ma lì si aggiunge, cioè qui si va avanti con la, cioè questo è, se non sbaglio, non so, siamo al nono, alla nona fattispecie di terrorismo che abbiamo nel nostro, nel codice Rocco, cioè Mussolini e Rocco in confronto erano dei dilettanti. Voglio dire, qua si inventano sempre più e si abbassa sempre più la soglia, ma abbiamo visto quello che è successo col giornale anarchico Besmotivni, infatti. L'obiettivo loro è colpire pubblicazioni, cioè oltre che abbassare la soglia, per cui se c'hai un libro degli anni 70, ma cioè voglio dire, c'è Senza tregua di Giovanni Pesce che spiega come fare le bombe durante la resistenza, narra della resistenza, voglio dire. La soglia diventa, per cadere nella definizione di terrorismo, diventa sempre più bassa. Questa è la tendenza. Già abbiamo una sfera ampia cosa significa terrorismo, no? Addirittura c'è una definizione, mi sembra, nel 276, molto molto ampia, per cui quella lì è forse ancora più grave, introdotta mi sembra col pacchetto Pisanu, appunto il pacchetto sicurezza Pisanu. E quindi qua siamo ancora, cioè il terrorismo diventa sempre, cioè la soglia si abbassa sempre di più, no? Anche qui siamo di fronte ad una guerra giudiziaria, giuridica, preventiva a tutti i fenomeni, cioè all'organizzazione, all'azione diretta, al dibattito, ai singoli che non ci stanno, cioè così, l'attacco generalizzato è sempre più pesante, ecco, e questo è insomma è pesante anche questo, ecco, si scrive però in un quadro di, cioè noi siamo ormai dal 2000, la guerra al terrorismo è permanente, insomma, ormai nel nostro ordinamento giuridico, che diventa sempre più un diritto di guerra verso rivoluzionari, verso rivoltosi, ripeto, la soglia si abbassa sempre di più per essere definito terrorista. Sì. Ecco, non so, ci sono altre cose che che abbiamo tralasciato secondo te? Ma ci sono tanti, essere lungo. Sì. Cioè, l'infamia poi di far nascere bambini in carcere, certo, per me è vergognosa. Sì, cioè, nel senso, il fatto che le donne incinta possano finire in carcere, no? Sì, che prima invece era che non, cioè, adesso è ancora che automaticamente non finisce, giusto? Sì, sì. Mm-hmm. Non c'è, annullano le possibilità di ritardare l'esecuzione della pena per le madri incinta, la donna incinta e per chi ha un bambino molto piccolo. Sì. Cioè, insomma, questo insomma è una roba vergognosa, ecco, secondo me. Sì. Questo qui è anche un articolo che viene nominato come, diciamo, un'operazione razzista nei confronti di un certo gruppo, no? Cioè il gruppo, certo, dei Rom. I Rom, che poi anche questo magari sì, è un luogo comune, nel senso che non è che solo loro, solo le donne Rom, sì. Comunque, in effetti, è razzializzato, diciamo, come tipo di provvedimento. Sì. La Lega l'ha presentato come razzializzato, esatto, ed è un partito razzista, e qui si conferma come tale, esatto, oltre che un partito che, insomma, si vede anche chiaramente la matrice del difendere gli interessi degli industriali che la Lega fa. Sì, sì. Con tutto il discorso delle grandi opere, cioè colpire chi si oppone a opere distruttive per il territorio. Ma insomma, allora c'è anche poi l'altra infamia, è quella per i militari all'estero, il fatto di consentirgli di svolgere di tutta una serie di condotte, tra cui anche la riduzione in schiavitù, giustificata dalla missione, no? Mm-hmm. Dalla missione. Mm-hmm. E poi, vabbè, se vogliamo, anche a me ha impressionato la possibilità per i servizi segreti di fare convenzioni con enti pubblici, enti erogatori di servizi, per ottenere informazioni di massa che poi, insomma, oggi vogliono gestire con l'informazione, con l'intelligenza artificiale. Certo. Quindi figuriamoci. Cui, non so, fanno l'accordo con la TIM, la TIM sappiamo già che tutte queste multinazionali si prestano molto volentieri al controllo, ma in questo caso sono obbligate a fare una convenzione per la fornitura di dati su utenze, servizi, mm-hmm, eccetera. Quindi, insomma, vogliono un controllo totalitario, spingono, ecco, per questo, ecco. Poi noi abbiamo fiducia che non si riusciranno, che ci sarà sempre la forza, la lotta di classe, la volontà di sovversione sarà sempre forte, sempre più forte, ma insomma la loro tendenza è questa, cioè vogliono controllare preventivamente la popolazione anche con questi provvedimenti. Ecco, bene, cioè bene, non bene, ma beh, intanto grazie del quadro generale, perché sì, è stato esaustivo e niente, ci aggiorniamo per le prossime iniziative. Qualcosa succederà, sì, no? Certo. Anche contro queste infamie. Certo, certo. Ci sono già, visto, un po' di manifestazioni in giro. Mm-hmm. Non bisogna farsi intimidire. No. Non bisogna, perché quello che loro vogliono è questo proprio, di bloccare, di fare si permettono certe cose anche perché il livello di lotta è basso. Dobbiamo entrare in questa mentalità qua e non nella mentalità opportunista, riformista, che dice teniamo la testa bassa così, così non sono cattivi. Teniamo presente che siamo in una fase di crisi, di guerra a livello globale, e che la guerra significa repressione sul fronte interno. Questo è insomma, bisogna resistere per vincere, insomma, guardare l'esempio anche dei palestinesi, ad esempio, un popolo che di fronte anche al genocidio va avanti a lottare. Giusto, e a questo proposito, ci vediamo a Gorizia, Gorizia Nova Gorica, sabato, no? Lo diciamo già, visto che c'è questa manifestazione, solidale con la resistenza palestinese e contro lo Stato di Israele sionista e genocida. Sì, alle 17 in piazza della Vittoria. Sì, alle 17 in piazza della Vittoria. Ok, allora grazie ancora e alla prossima. Sì, ciao, grazie. Ciao, a voi. Ciao. E ci stiamo ascoltando questa band Kalashnikov, band che più volte abbiamo passato in questo programma. Comunque questo è un loro CD split assieme ad una band russa che sono i Flegmona. Let's go. Bene, teniamo in sottofondo questi Kalashnikov, anche perché siamo giunti al termine di questa trasmissione, cioè abbiamo pochi minuti a disposizione. Programma che appunto si chiama Zardins Magnetics, in diretta radiofonica ogni giovedì dai studi di Radio Onde Furlane, anche oggi 19 settembre 2024. E anzi, prima di leggervi i soliti nostri contatti come consuetudine a fine trasmissione, ripeto nuovamente l'appuntamento che è stato accennato prima, ovvero che tra due giorni, sabato 21 settembre a Gorizia, dalle ore 17 ci sarà una manifestazione che partirà da Piazza della Vittoria, ovviamente manifestazione in solidarietà al popolo palestinese sul genocidio che sta subendo da parte dello Stato di Israele, ed è una manifestazione che comunque proseguirà il percorso fino al centro di Nova Gorica, quindi un passaggio diciamo transfrontaliero. Questo, come già detto, sabato dalle ore 17 in Piazza della Vittoria ci sarà l'appuntamento e consueto corteo e partenza. Mentre noi qui la trasmissione di Zardins Magnetics, vi ricordiamo che viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e se volete scriverci potete farlo tramite posta elettronica scrivendo a liberetutti@autistica.org oppure scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129 Trieste Centro 34121. Vi ricordo anche che questa trasmissione, ma pure quelle in passato, nei mesi e mesi, anni e anni, potete andare nel blog Zardins Magnetics radio.noblogs.org, ripeto, Zardins Magnetics radio.noblogs.org. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17, e al prossimo giovedì. Ciao a tutti, vi lascio con questi Kalashnikov.